sede piccola sognavo in grande. Un principe con la carrozza, qualcuno che mi apra la porta, che mi ami uguale mora o bionda. Ma poi la vita ti mischia le carte, un diavolo per ogni ciocca. Niente castello, siga in bocca, fa l'amore poi mi strozza. Gli occhi tuoi nei miei, luci spente nei musei. Dimmi tu che segno sei, perché oggi ho letto l'oroscopo. C'è scritto che litighiamo e che poi ci buttiamo, buttiamo, buttiamo, ma dall'ultimo piano. Mi cercherai nell'oroscopo, nel segno della bilancia. Stasera c'è un paracadute, soltanto vince il primo che si lancia. Apro la mente, chiudi le serrande, certo non è una filastrocca. Milano è bella, però è sporca. Ti bacia, poi ti sputa in bocca e sai, mi sfoglierai come un hentai. E forse un giorno mi raggiungerai, sempre in ritardo come l'FBI. Gli occhi tuoi nei miei, luci spente nei musei. Dimmi tu che segno sei, perché oggi ho letto l'oroscopo. C'è scritto che litighiamo e che poi ci buttiamo, buttiamo, buttiamo, ma dall'ultimo piano. Mi cercherai nell'oroscopo, nel segno della bilancia. Stasera c'è un paracadute, soltanto vince il primo che si lancia. Che litighiamo, però se vuoi ci proviamo, proviamo, proviamo, sei il mio ultimo piano. Mi cercherai nell'oroscopo, nel segno della bilancia. Stasera c'è un paracadute, soltanto vince il primo che si lancia.